credo che bisogna dare un inquadramento storico a quella che è la legislazione dell'aborto nel nostro paese. Evidentemente in questo momento io sto parlando dell'Italia, un paese che ho conosciuto come studente e neolaureato in medicina prima della legge sull'aborto del 1978 e ho visto con i miei occhi delle giovani donne arrivare in pronto soccorso con l'utero perforato dalle manovre delle cosiddette mammane, ho visto e ascoltato i racconti di altre giovani donne che andavano in una clinica romana che si chiama Villaggina ad abortire a pagamento e quindi comprando la clandestinità, e altre ragazze che invece magari erano di famiglie più benestanti che andavano a Londra dove una legge già c'era, e di quelle che invece arrivavano al pronto soccorso con l'utero perforato, alcune le ho viste morire per sanguinamento, altre per infezioni, per queste manovre terribili eseguite nella clandestinità, ovviamente da persone che non avevano nessuna competenza medica. E quindi io credo che, e lo dico davvero con convinzione, uno Stato laico deve avere una legge sull'aborto.